24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:30 minuti, eccoci cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino, ben ritrovati in diretta fino alle 9. Subito il sondaggio di oggi, che è già votatissimo su radio24.it o ilsole24.com. Parliamo di scuola, la novità annunciata in passato e resa operativa di fatto dal ministro Gelmini da venerdì scorso, dicendo a partire dall'anno prossimo ci sarà il tetto del 30% di stranieri nelle classi, di alunni stranieri nelle classi, non più del 30%. Ieri poi ha precisato per coloro che sono nati in Italia, dunque anche se stranieri, questo non vale. Insomma, che ne pensate? Siete d'accordo di questo tetto del 30% di stranieri e non di più nelle classi dei nostri figli? Il 71% di voi per il momento dice sì, siamo d'accordo. Votate, ne parleremo poi alle 8:30 e questo è uno dei temi che troviamo sui giornali, giornali che andiamo subito a sfogliare. In primo piano. Anche se la vicenda di Rosarno, che ancora tiene banco decisamente con le aperture di tutti i quotidiani, sgomberi nelle aree a rischio per il Corriere della Sera, Rosarno, il pugno di Maroni, via all'espulsione degli immigrati, questa è invece Repubblica. Rosarno, abbattute le baracche, il Papa, rispettate gli stranieri, per la Stampa. Maroni, fermare il lavoro nero, il Messaggero, che ha anche un'intervista che vedremo subito al ministro dell'Interno. Chi ha sbagliato ora paghi, è il titolo invece del giornale, riferito sempre a Rosarno. Cancellati, questo è il titolo della prima pagina dell'Unità, c'è una ruspa che sta abbattendo le baracche degli immigrati. E cancellati dunque perché sono stati trasferiti. Mentre l'apertura è dedicata del Sole 24 Ore alla politica, l'abbiamo sentito anche in GR24, alla politica per un sondaggio molto interessante che ogni anno il Sole ripropone, bocciati sindaci e governatori, lo vedremo, le pagelle ai politici locali, lo vedremo più avanti. Dicevamo che il Messaggero intervista con Massimo Martinelli il ministro dell'Interno Maroni. Voglio partire dunque da Rosarno. Rosarno, sia dagli azione sia di lezione, adesso fermiamo il lavoro nero. È sul lavoro nero che punta molto l'intervista di Maroni, che dice la morale in quella zona è che siccome costa troppo assumono in nero. Io non ci sto, non si può più tollerare tutto questo, bisogna fermare il lavoro nero. Finora sono stati chiusi tutti e due gli occhi per complicità e connivenze a molti livelli, adesso non dovrà più succedere. E Maroni indica anche qual è lo strumento per evitare tutto questo, si chiama voucher, cioè buono lavoro, è uno strumento ideato per il pagamento del lavoro occasionale introdotto dalla legge Biagi. Ha un costo minimo che sopportano i datori di lavoro per mettere in regola queste persone. E i datori lo sopporteranno, chiede Martinelli, se qualcuno pensa che neppure questo costo minimo sia sopportabile, allora dica chiaramente che vuole violare la legge. E non perché sono alti i costi, ma perché vuole sfruttare il lavoro in maniera schiavistica. Ma noi non accetteremo più che ci sia sfruttamento di lavoro nero. Dunque su questo punta il ministro Maroni. Ora ovviamente mi hanno detto c'è stato l'abbattimento delle baracche, il trasferimento soprattutto degli irregolari nei centri di identificazione ed espulsione, perché verranno poi espulsi. Dei regolari invece sono stati trasferiti e, come ha detto Maroni, potranno andare dove vogliono, insomma sono regolari, quindi possono anche tornare a Rosarno ovviamente. Ora però c'è in qualche modo anche le accuse al paese. Il parroco stesso ieri nell'omelia, il parroco di Rosarno, riportato dai vari giornali, ha detto avete cacciato chi lavorava in questa vicenda, abbiamo perso un po' tutti, avete cacciato anche chi lavorava e no, non voglio farisei in chiesa. L'accusa anche molto forte al paese, a chi insomma in qualche modo ha alimentato o controalimentato, insomma la vicenda poi non si è mai chiarita da dove sia nata, le colpe, le controreazioni di quello che è successo, di vere scene di guerra civile. La Stampa ha anche un bel racconto, se avete la pazienza, la voglia di leggerlo, a volte anche gli articoli vanno letti con il gusto proprio della lettura. Un articolo di Pierangelo Sapegno della Stampa, che ha fatto Sapegno, ha ha dato un passaggio a due di questi migranti regolari, dicendo: vi accompagno fino a Roma Termini, il viaggio con Amadou e Youssouf Bamba. E c'è il racconto proprio di questo viaggio da Rosarno fino a Roma, con Amadou che dice: scappo a Brescia ma vorrei riabbracciare mia madre. Racconta di come lavoravano 20 euro al giorno, lavoravamo 12 ore, si tornava alle 8 di sera, poi dovevamo anche pagarci il trasporto ai campi, 2 euro e mezzo all'andata e 2 euro e mezzo al ritorno, dunque fanno 20 euro meno 5, 15 euro in un giorno. I viaggi erano organizzati dai padroni, ma era una tortura. C'era chi decideva di andare a piedi per risparmiare su questi 5 euro di trasporto, ma era una tortura perché arrivavano i ragazzi in motorino, cominciavano a zigzagare intorno, a darti calci, sputarti addosso, insultarti. Se qualcuno reagiva, dopo arrivavano in gruppo con i bastoni. C'erano i buoni e i cattivi a Rosarno, come dappertutto. Insomma, è un bel racconto di questi due immigrati che si raccontano la storia, la loro fuga dai loro paesi africani a Pierangelo Sapegno. Voglio andare a questo proposito su Rosarno, sul Foglio del lunedì, dove c'è il commento consueto di Giuliano Ferrara, che recita così: però sveglia, mi volete spiegare come mai nell'eterno sud populista, lassista, familista, pauperista succede quello che succede? Guerriglia civile, ferocia scatenata, rivolta, controrivolta, infine deportazione dei neri, mentre nel Veneto gretto, piccolo borghese, mini imprenditoriale, piastrellaro, razzista, xenofobo, leghista, e in particolare a Treviso, dove non comandano i progressisti che hanno letto Giustino Fortunato, ma i reazionari che parlano come l'ex sindaco Gentilini, come mai dunque a Treviso decine di migliaia di immigrati sono via via integrati nel sistema dell'economia di mercato, nella società civile dove non ci sono i Libera, i Donciotti, i volontari benemeriti di ogni sorta di assistenza, ma fabbrichette, capannoni, consumatori, esportatori e altra vil razza dannata del capitalismo dei distretti industriali? Ecco, chiede polemicamente Giuliano Ferrara. E poi chiede ancora: com'è possibile che in parte del nostro mezzogiorno ci sia gente immigrata costretta a vivere come topi, in condizioni di lavoro arcaiche e paraschiaviste, mentre i nativi, cioè noi e i nostri fratelli e sorelle italiane, se la cavano con il lamento eterno della disoccupazione e con il lavoro nero fluente, affluente e parecchio connesso al dominio criminale sul territorio? Non sono leghista né qualunquista, ma non capisco come possa essere condannato il ministro dell'interno per aver detto l'ovvio. Anni di incompetente retorica lassitudine hanno lasciato che crescesse il fenomeno dell'immigrazione regolare, che secondo tutte le testimonianze, compreso Don Ciotti, è l'ordito in cui si intrama la ruvida rete del governo criminale della Calabria, della Campania e di altri pezzi del sud italiano. Insomma, sferzante come al solito Giuliano Ferrara nel suo editoriale di prima pagina del Foglio del lunedì. Voglio lasciare Rosarno, di cui troverete comunque tanti racconti come quello di Sapegno sulla Stampa, li trovate un po' tutti, insomma, racconti di questi migranti che, un po' raccogliendo le pochissime cose che hanno, ora sono costretti chi ad andare via, i regolari nelle altre regioni, chi invece gli irregolari ad andare via per essere espulsi. Diciamo legato a questo tema del razzismo, trovate un altro tema legato al calcio, il calcio, con il ministro Maroni che ha proposto a questo punto, anche per quel che riguarda il razzismo nel mondo del calcio, bisogna sospendere le partite. È una cosa che esce dalle cronache sportive per diventare cronaca nazionale, insomma, perché suscita poi un dibattito con il calcio, il mondo del calcio, che più che altro dice: con queste regole, leggo dal Corriere della Sera, stop impossibile, perché il pallone si fermi per razzismo, chiede il ministro dell'interno. Benissimo, risponde il mondo del calcio, c'è solo da capire chi decide. Chi decide? L'arbitro, dice Maroni, e però spiazza così le istituzioni del pallone, perché secondo le direttive dello stesso Viminale a stabilire lo stop dovrebbe essere proprio gli uomini del ministro inviati sui campi, tipo il questore o chi lo sostituisce. E dunque dicono al mondo del calcio: se il Viminale, il ministero dell'interno, cioè, cambierà quella circolare, ora gli arbitri potranno assumersi la responsabilità di decidere quando va fermata una partita. C'è anche un'intervista su Repubblica a Luciano, giocatore di colore del Chievo. che dice sono offese quelle che capitano, certo che sentiamo e bruciano sulla pelle, lo stadio è il posto peggiore, sono d'accordo con Maroni, anzi sarebbe ora di fermare le partite, non è certo una cosa carina sentirsi insultare. Luciano dice a me è successo una volta col Bologna, l'arbitro che era Farina voleva sospendere la partita, ha chiamato i calciatori del Bologna, gli ha detto fate smettere i tifosi oppure non andiamo avanti, e i tifosi hanno smesso. Poi Luciano vive a Verona, gioca nel Chievo, dove in quello stadio dove Balotelli si è molto arrabbiato dicendo mi fanno schifo questi tifosi, e Luciano dice io vivo a Verona da 10 anni, non è mai successo un problema, come del resto a Milano dove ho vissuto, nessun problema fuori dal campo, intendo dire il razzismo lo trovo solo sugli stadi, ma sono stupidi. Vabbè, insomma, questa è la vicenda legata al calcio, legata sempre a questo tema, sta tenendo questo filone, non il razzismo in questo caso, ma insomma la convivenza con gli stranieri, c'è appunto quello che è il tema del nostro sondaggio, vale a dire quello che ha annunciato in maniera pratica, sarà pratica a partire dal prossimo anno il ministro Gelmini. Ci sarà il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi italiane, non più del 30%. Ieri peraltro è arrivata una precisazione, era ospite di Lucia Annunziata, l'abbiamo sentita anche in GR24, il ministro, e ha detto questo non si applica però per i cittadini, gli alunni che sono nati in Italia, seppure siano stranieri. Scuole aperte ai nati in Italia, questo è il titolo, diciamo è la novità sulla quota introdotta, che verrà introdotta l'anno prossimo. Gelmini, niente tetto del 30% per i ragazzi stranieri che conoscono la nostra lingua. Dunque, quelli che sono nati qui sono stranieri, ma conoscono la lingua, non hanno più bisogno, insomma, di essere tolti dalle classi, perché il problema poi è quello, insomma, limitare il numero di allievi che possono in qualche modo rallentare anche l'apprendimento di tutti, di loro stessi, ma se sanno l'italiano è inutile toglierli dalla classe. Questo che però che cosa introduce? Introduce e dà spunto al deputato Andrea Sarubbi, che è il primo firmatario di quella proposta di legge voluta anche da Fini, per esempio, che vuole dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana a chi? Agli figli degli stranieri nati appunto in Italia, che sono perfettamente integrati, che sanno l'italiano, vanno nelle nostre scuole. Andrea Sarubbi, appunto, del Partito Democratico, dice: beh, insomma, la Gelmini mi ha fatto uno straordinario assist, perché utilizzerò sicuramente questo argomento per dire allora accolgo, e lo fa in un'intervista alla Stampa, accolgo con vero piacere la conversione del ministro Gelmini allo ius soli, cioè il diritto legato al territorio, il diritto alla cittadinanza, perché si nasce in un paese. Escludere dal tetto del 30% gli studenti stranieri nati in Italia, dice il deputato Sarubbi, significa riconoscere di fatto che chi è nato da noi e frequenta le nostre scuole deve essere considerato italiano al pari dei propri compagni di classe, a prescindere dal colore della pelle o del suono esotico del proprio cognome. E ancora Sarubbi dice: il ministero prende atto che chi è nato in Italia è di una specie diversa. La questione didattica mi sembra marginale. Ovviamente Sarubbi dice: non è che le parole di un ministro hanno costituito mai un precedente, ma a volte le dichiarazioni hanno più importanza delle leggi stesse. Quindi nel dibattito politico sulla cittadinanza sicuramente utilizzerò queste parole del ministro Gelmini. È un tema che troviamo articolato un po' ovunque, anche sull'unità scuola Gelmini in retromarcia, il 30% di stranieri manati all'estero, e dunque si dice a questo punto il deputato Sarubbi, appunto, dice il ministro si è convertito alle nostre idee e accolgo insomma questa cosa da utilizzare per la mia battaglia sul diritto di cittadinanza. Allora votate ovviamente su radio24.it o il sole24ore.com che ne pensate del tetto del 30% massimo di stranieri, a questo punto non nati in Italia, nelle scuole italiane. In primo piano Tra l'altro, per quel che riguarda la scuola, vorrei dare un'anticipazione del Sole 24 Ore, poi tornerò al Quotidiano Economico tra un attimo, ma sul tema della scuola trovate due pagine sul quotidiano di oggi, del lunedì, sulla riforma dei licei. Corsa finale alla riforma delle superiori, cioè le scuole secondarie, diciamo. La riforma della scuola secondaria è una corsa contro il tempo che il ministro Gelmini ha più volte garantito andrà tutto comunque come previsto. È una delle tre priorità di riforma annunciate da Berlusconi per il 2010. Il via libera del governo entro gennaio, arriva la proroga a fine marzo delle iscrizioni. Ci sono due pagine proprio per anche una guida a come orientarsi per la scelta delle secondarie che trovate oggi sul Sole 24 Ore. Sul Sole, ripeto, e al Sole torno tra un attimo. Prima voglio concentrarmi su un altro tema che trova ampio spazio sui giornali, vale a dire quello dell'altra riforma annunciata da Berlusconi, la riforma fiscale. Trovate tanti commenti. Perché? Perché Berlusconi, in questa intervista a Repubblica di un paio di giorni fa, avete sentito bene, insomma, ha fatto anche un po' scalpore, ha scelto un'intervista a Repubblica, il quotidiano delle famose 10 domande, ma in quell'intervista non si è parlato delle 10 domande, si è parlato di cose concrete, vale a dire, tra l'altro, Berlusconi che ha detto faremo la riforma fiscale portando a due aliquote per l'IRPEF, 23-33%. Ebbene, dopo questo annuncio, si sono scatenati, insomma, commenti, oggi ancora ce ne sono. Voglio partire da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, 1994-2010, le promesse tradite sulle tasse. In principio era l'aliquota unica, succedeva nel 94, Silvio Berlusconi si apprestava a vincere le elezioni, il suo guru fiscale era Antonio Martino, economista liberal della Scuola di Chicago, che per la campagna elettorale tirò fuori l'asso nella manica, la flat tax, ovvero un'aliquota unica IRPEF del 33% per tutti i contribuenti. Allora Giulio Tremonti, candidato dei pattisti, lo stroncò, miracolismo finanziario. Una volta al governo, Berlusconi spedì prontamente Tremonti alle finanze e Martino alla Farnesina, l'aliquota unica nel dimenticatoio. Poi le aliquote diventarono due, 23-33%. Berlusconi prese l'impegno solenne da Bruno Vespa. Il superministro Tremonti si mise d'impegno. Radioso il Cavaliere annunciò nella finanziaria del 2003 la riduzione dell'IRPEF partirà dal prossimo anno, riguarderà 28 milioni di italiani. E poi, al 3 maggio 2005, la legge delega con le due aliquote e l'armonizzazione delle imposte sulle rendite era scaduta senza essere applicata. Nel frattempo le aliquote IRPEF erano 3, 23, 33, 39%, poi 4, 23, 33, 39, 43%. Insomma, tutto una ricostruzione di Sergio Rizzo per dire le promesse annunciate poi mantenute, lo stesso Prodi poi nel 2006 ha sì tagliato il cuneo fiscale chiesto da Confindustria di Montezemolo, ma nella breve storia del suo ultimo esecutivo non c'è traccia di quel grande e sostanziale calo delle imposte per i lavoratori con reddito medio-basso e per le famiglie con i figli. E poi, dice Rizzo, qualcuno ha invece notizie del quoziente familiare, cioè il sistema fiscale basato sulla tassazione della famiglia diviso per i componenti del nucleo, di cui Berlusconi ogni tanto parla. Insomma, la conclusione di queste promesse dal 94 a oggi, annunciate ma mantenute, di Rizzo è: non resta che sperare nella cancellazione del bollo per l'auto, le moto e i motorini, l'ultima promessa che Berlusconi ha fatto in campagna elettorale, incrociamo le dita. C'è da dire che Angeletti sul Quotidiano Nazionale dice: li abbiamo convinti, bisogna fare fatti concreti, ci vuole effettivamente una riduzione delle aliquote. E, diciamo che questo è il tema. È molto critico Enrico Letta del Partito Democratico, in un'intervista a pagina 2 di Repubblica dice: il Partito Democratico è scettico, il taglio costa 30 miliardi. Parla di campagna elettorale, mi puzza di campagna elettorale, puntuale ad ogni elezione, dal cappello del Premier salta fuori l'idea di due sole aliquote IRPEF, 23 e 33%. E tra l'altro dice: per noi la priorità non è abbassare dal 43 al 33 l'aliquota per i contribuenti più ricchi, la priorità è portare dal 23 al 20 l'aliquota per la grande maggioranza dei lavoratori dipendenti, se no finisce come l'intervento sull'ICI che ha avvantaggiato solo i più ricchi. Insomma, c'è grande dibattito su questa riforma. L'altra riforma è quella della giustizia, tanto che oggi Berlusconi, che ritorna diciamo attivo a Roma in politica, incontrerà il presidente Napolitano, un incontro che secondo Repubblica, Liana Milella, suscita qualche mal di pancia in Fini. Fini e il conclave sulla giustizia tenuto all'oscuro anche stavolta. Cioè dice praticamente Fini non è stato, è stato avvisato all'ultimo di questo incontro e quindi insomma sarebbe un po'... si sarebbe adombrato, staremo a vedere, la politica come al solito così, il lunedì patisce un po' della ripresa della settimana, c'è qualche intervista qua e là, ma questi sono i temi sul tavolo. Andiamo alla cronaca, dove mi piace sottolineare in apertura la storia, la bella storia di questo parto incredibile con sei bimbi, avvenuto a Benevento, e tra l'altro è avvenuto proprio nel giorno in cui 30 anni fa, e quindi compiono 30 anni, i sei figli dei sei gemelli Giannini, una vicenda che iniziò a Bibbiena in provincia di Arezzo e che 30 anni fa proprio coinvolse tutta l'Italia. I gemelli d'Italia hanno 30 anni. Tra l'altro c'è un'intervista alla madre, a mamma Rosanna Giannini, che dice: i gemellini tricolori, forse qualcuno se li ricorda. Anche oggi i miei figli sembrano un po' l'emblema di questa Italia, sono bravi ragazzi che abbiamo fatto studiare con tanta fatica, cinque di loro ancora non hanno un posto fisso e rischiano di perderlo, insomma vivono nella precarietà assoluta, è uno spaccato d'Italia, 5 su 6 sono precari. Dice mamma Rosanna Giannini, c'è la foto di loro trentenni sul Corriere della Sera e c'è il resoconto invece della storia nuova che nasce, insomma, di questa mamma e papà che hanno messo al mondo sei bambini, stanno tutti bene, questa è la notizia più importante, e poi ora dicono ovviamente Carmela Oliva e il marito Pino Mele ci aiuteranno i nonni, insomma speriamo proprio di sì, perché con sei figli, mamma mia, non voglio neanche pensarci, poi tutti contemporaneamente, ma ovviamente tanti tanti auguri a questa coppia. Sempre riguardo alla cronaca, qualcuno se lo ricorda, ma 5 anni fa il ministro Sirchia, allora ministro Sirchia la salute, era quello che bandì il fumo nei locali pubblici. 5 anni sono passati, oggi c'è una bella intervista a Goffredo Buccini sul Corriere. La delusione inizia così, Sirchia: Fini. Quando entrò in vigore la legge mi disse: smetto, durò 3 giorni. D'Alema invece ce l'ha fatta, lo so, anche adesso Gianfranco Fini invece ha rismesso, è vero, Fini ha annunciato non fumo più 2 giorni fa, gli ho fatto gli auguri. Il nemico giurato, Antonio Martino, gran fumatore, collega di governo, mi faceva critiche pesanti. Il conforto più grande, i ferrovieri della Milano-Roma, prima di me li stavano ammazzando col fumo passivo, ancora oggi quando salgo in carrozza vengono a ringraziarmi. Insomma, questo 5 anni di legge antifumo, Sirchia oggi le rivive, mi incontravano per strada i cittadini, mi dicevano non smettere di lottare, qualche insulto non dalla gente, ricordo 2 o 3 giornalisti come Ferrara, o forse mi confondo, forse Ferrara ce l'aveva con lo scontro successivo sull'alimentazione e l'obesità, mi diceva che volevo fare il talebano. Però insomma Sirchia dice alla fine anche i gestori dei locali che mi odiavano perché poi pensavano di perdere clienti, invece scoprirono che venivano di nuovi, i cardiopatici, gli asmatici. Insomma Sirchia dice è una legge sacrosanta e la difende, e ha ragione peraltro a mio modo di vedere. Concludo sottolineando l'articolo c'è grande attesa, l'avevamo già annunciato, tra una settimana esce Ali Accià, colui che sparò al Papa. Scriverò il Vangelo perfetto. Ali Accià, una libertà dorata, ha già annunciato di volere vendere per vari milioni di dollari interviste esclusive per i libri, ha scritto a Dan Brown, vuole scrivere il Codice Vaticano con lui, insomma intemperato speranze mistiche definite dal quotidiano nazionale, scriverò della fine del mondo e del Vangelo perfetto. Così parlò Aliaccià. Il titolo del giornale è Come sparare al Papa e diventare milionari. Se ne sentiva proprio la mancanza. Sono le 8:16, ben ritrovati, eccoci qua 24 mattino, è il momento dell'economia. Con Teletu parli e navighi 6 mesi gratis, info e copertura al 1922 o su teletu.it. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, che come lei ben sa, insomma, nel calcio si vince, si pareggia e a volte purtroppo si perde. Esatto. Molto spesso ultimamente. Allora, ci parla dal microfono 3, ci dice Peter. È il numero 5 e non cominciamo, non andiamo avanti 3. Con questa storia che sta andando avanti da 10 minuti. Guarda bene che il microfono fermo. È il 3. Sì. Va bene. Ho un avvocato stamattina in diretta per Soldi e Dintorni. Non cominciamo subito che ti denuncio per molestie calcistiche e da tifoso. Va bene, andiamo avanti. Mamma mia, che serataccia. Vabbè, andiamo avanti. Come? No, andiamo avanti. Allora, sei venuto in motorino stamattina, sei come al solito in metropolitano in macchina. In motorino. Com'è andata? Hai trovato qualche buca o sei filato liscio? Ci sono, ma si cerca di evitarle, come dire. Ecco, bravo, infatti, guida prudentemente. Allora, a Milano, per la verità, non ci sembra che le recenti nevicate abbiano provocato grandi dissesti alle strade, almeno in quelle che io e Alessandro percorriamo venendo al lavoro, ma in molte città e molti paesi capita che dopo il passaggio di neve e ghiaccio ci si ritrovi le strade piene di buche e crepe che possono risultare inevitabilmente pericolose per i cittadini sia a piedi che con i mezzi di trasporto. Allora, noi chiaramente dobbiamo essere sempre prudenti alla guida e camminare magari anche stando con la testa sulle spalle, però ci possono essere delle situazioni imprevedibili e possono crearsi quelle condizioni per cui ci possiamo rivalere anche contro le amministrazioni che dovrebbero gestire la qualità delle strade delle città e quindi dovrebbero tutelare la sicurezza di automobilisti e pedoni. E ci sono molte richieste però di risarcimento che arrivano alle amministrazioni comunali e provinciali. Noi stamattina cerchiamo di capire come comportarci in questi casi con un avvocato civilista, collaboratore del Sole 24 Ore, ed è l'autore del pezzo che esce proprio oggi sulle Sole del lunedì, pagina 21, fra le pagine dell'inserto Affari Privati, esattamente su questo argomento. L'avvocato Paolo Russo, avvocato civilista, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda che le faccio è questa: abbiamo una giurisprudenza molto ampia in Italia in fatto di richieste di risarcimento da parte di automobilisti o cittadini che camminano normalmente e, come dire, incappano in buche e crepe delle strade, soprattutto situazioni che si possono verificare, come dicevo prima, dopo eventi meteorologici particolarmente dirompenti, e ci sono, come dire, molti risarcimenti da parte delle amministrazioni che devono ripagare i cittadini che subiscono questi danni e questi disagi, avvocato? Intanto dicevo buongiorno a tutti. Diciamo, la giurisprudenza è sicuramente copiosa ed abbondante. Occorre evidentemente anche avere un po' di buonsenso anzitutto, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria nella speranza di ottenere una sentenza in tal senso, è evidentemente preferibile rivolgersi in via transattiva, inviando magari una lettera raccomandata all'ente in questione, richiedendo tutti quanti i danni subiti ed allegando tutta la documentazione necessaria a far sì che questo danno possa essere risarcito. Quanto comunque alla domanda, sicuramente la giurisprudenza, dicevo, è numerosa, tanto della Suprema Corte di Cassazione quanto dei nostri giudici di merito, quindi giudici di pace e tribunali italiani. In particolare c'è da dire che la giurisprudenza diversifica le situazioni a seconda che i danni si possano verificare, per esempio all'interno di un comune, quindi all'interno, diciamo, di un centro abitato, oppure invece all'interno di una situazione più ampia come può essere quella di un'autostrada. Perché per quanto riguarda il primo caso è evidente che la giurisprudenza ha chiarito come il comune, per esempio, abbia l'obbligo tanto di garantire la manutenzione della strada, ma anche quello della custodia, con tutto quindi quello che consegue, cioè l'obbligo di vigilare, per esempio, per impedire che terzi come le aziende che sono incaricate per l'esecuzione dei lavori sulle strade possano procedere in maniera tale da far sì di evitare la recamento di danni a tutte quelle che sono i cittadini. e in particolare al contrario, per quanto riguarda la giurisprudenza delle autostrade, è stato chiarito che siccome queste strade sono evidentemente beni che molto estesi, per i quali non è possibile una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, in questo caso è molto più difficile dimostrare la responsabilità tanto della pubblica amministrazione proprietaria dell'autostrada quanto quella del concessionario della medesima. Ad ogni modo la responsabilità di cui stiamo parlando è la responsabilità di cui all'articolo 2051 del Codice Civile, che espressamente chiarisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Quindi tanto appunto, sì, la lascio concludere. E questo appunto, dicevo, rappresenta uno dei limiti effettivamente alla risarcibilità del danno. Benissimo, allora tanto per ridare di nuovo indicazioni pratiche anche ai nostri ascoltatori. Certo. Qualora fossimo incappati in una situazione di questo tipo, qualora transitando su una strada, adesso non dico se in centro o lontano dal centro, avessimo danneggiato pesantemente la nostra auto oppure camminando, non avessimo avvertito immediatamente un pericolo e ci fossimo slogati una caviglia e, come dire, anche danneggiati dal punto di vista della salute in maniera così importante o che ci infastidisce e che ci mette in difficoltà, magari ci fa anche perdere una giornata di lavoro, prima di partire con la denuncia nei confronti dell'amministrazione locale, intanto verifichiamo dove la situazione si è verificata a sua volta. Quindi una cosa è che la strada sia danneggiata in un centro, la cosa è che la strada appunto sia danneggiata in un ambito, come dire, territoriale più ampio. Dopodiché che cosa si fa? Lei ci ha detto di istruire molto bene la pratica e soprattutto che tempi dobbiamo rispettare, avvocato, anche per avere magari la certezza di avere ragione di questo procedimento che attiviamo. Certo, dunque quanto, ripeto, alla procedura stragiudiziale, quindi al di fuori delle aule di tribunale, la cosa più logica da fare è evidentemente inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla pubblica amministrazione interessata, poniamo il comune, quindi in questo caso una lettera indirizzata al comune dove si è verificato l'evento, in persona del sindaco pro tempore. Poi sarà il comune che indirizzerà diciamo la lettera all'ufficio competente a risarcire il danno. Mediamente le amministrazioni comunali sono assicurate contro questi eventi, avvocato? Evidente, oppure mediamente risarciscono loro e non hanno delle assicurazioni? No, diciamo che appunto ci sono determinati fondi che sono comunque stanziati e comunque ci possono essere poi anche determinate coperture assicurative. Per quanto comunque attiene la documentazione da allegare, evidentemente oltre alla richiesta del danno, si parla di documentazione fotografica attestante il luogo dove è avvenuto l'evento e quindi anche documentazione fotografica del bene danneggiato, poniamo l'autovettura. Al tempo stesso poi, oltre a questo, nel caso di lesioni personali, è una congrua documentazione medica attestante il danno patito, per esempio il certificato del pronto soccorso inizialmente, e poi tutto quello che ha a che fare con preventivi e fatture della riparazione. Nel caso in cui poi non sia intervenuta l'autorità giudiziaria sul luogo, quindi polizia municipale o polizia stradale, sarà opportuno anche capire se sul luogo dell'incidente erano presenti testimoni e quindi evidentemente chiedere loro di poter rendere una testimonianza anche scritta, sottoscritta da loro e corredata magari da un loro documento di identità in corso di validità. Leggevo nel suo articolo che lei precisa che non occorre inviare la richiesta nell'immediatezza dell'evento, visto che la prescrizione per i danni da buche sul manto stradale per danni da neve è pari a 5 anni, però io direi che è sempre meglio attivarsi immediatamente se si ha la certezza di avere ragione. Ecco. Assolutamente sì, anche perché è chiaro che insomma anche la nostra memoria rammenta molto più semplicemente quello che è avvenuto pochi giorni fa, non quello che è avvenuto 5 anni prima. Insomma. Avvocato, quindi, esistono dei precedenti di risarcimento particolarmente sensazionali che lei sappia? No, diciamo che non si parla di sensazionalità, si parla soprattutto di giusto inquadramento normativo. Un conto è, come dicevo, il richiamo all'articolo 2051 che appunto rammenta i danni cagionati da cose in custodia, un conto invece il più generico articolo 2043 del Codice Civile, che stabilisce in virtù del principio del neminem ledere che comunque l'ente proprietario della strada deve garantire quantomeno per l'utente che attraverso questa strada che non sussistano situazioni di pericolo occulto, le cosiddette insidie o trabocchetto, che sono caratterizzate tanto dall'elemento oggettivo della non visibilità e certo. dall'elemento soggettivo della non prevedibilità mm-hmm. dell'evento. Quindi il caso fortuito, dicevo, scagionerà sicuramente l'amministrazione dalla responsabilità da custodia. Benissimo. Noi abbiamo terminato, avvocato Russo, però vorrei dare ai nostri ascoltatori un'ultima raccomandazione, grazie anche al suo aiuto. Qualora dovessimo incappare in una strada dissestata, magari scampiamo anche il danno alla nostra auto oppure alle nostre caviglie, però magari segnaliamo anche queste situazioni lungo le strade, magari l'amministrazione non se ne è accorta e fa sempre in tempo a riparare ed evitare che qualcun altro invece venga danneggiato più pesantemente. Assolutamente. Infatti laddove comunque al momento dell'incidente venga contattata l'autorità, che può essere polizia municipale o polizia stradale, dicevo, saranno evidentemente loro ad avvertire immediatamente comunque il comune e a segnalare adeguatamente il pericolo, e questo a prescindere poi dal verificarsi o meno di un evento dannoso. Benissimo. Avvocato Russo, grazie per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Grazie a voi, a buona presto. Giornata. Caro Alessandro. Ecco, io vado qua a piangere di là, no, e vado a preparare la puntata di Salvadanai sui mutui. Avrei e la moratoria che entra nel vivo. Avrei già pianto tutte le no, peraltro non l'ho neanche guardata la partita, dico la verità, mi hanno chiamato dopo e io volevo sentire. Stiamo parlando di Juventus-Milan. Ma va? No, perché non l'abbiamo detto, ribadiamo. Santo cielo. Bella ciao, partita, ciao. A volte con la nebbia. Però, insomma, buona giornata, si è ciao. Visto tutto, ciao, ciao, si è ciao, visto ciao. Ciò che si doveva vedere. Grazie a Deborah Rosciani, alle 12 Salvadanai, e poi ci ritroviamo domattina. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: sono state abbattute le costruzioni che ospitavano gli immigrati a Rosarno, in Calabria, dopo gli scontri nei giorni scorsi, e ora il ministro Maroni, intervistato dal Messaggero, dice bisogna combattere il lavoro nero. Sulla situazione è intervenuto ieri anche il Papa, che ha detto gli immigrati sono esseri umani, vanno rispettati. Oggi per la politica Berlusconi torna a Roma, un mese dopo l'aggressione a Milano, il pacchetto giustizia all'ordine del giorno in un pranzo a Palazzo Grazioli e poi l'incontro al Quirinale con Napolitano. Riprendono anche i lavori parlamentari. Per la cronaca, 6 gemelli, 4 femmine e 2 maschi sono nati ieri all'ospedale Rummo di Benevento. Il padre, che a novembre ha perso il lavoro, lancia un appello: spero che lo Stato mi aiuti. E oggi compiono 30 anni i 6 gemelli Giannini, nati a Firenze nel 1980. Infine per il calcio, è il Milan, l'anti-Inter, i rossoneri hanno vinto 3-0 a Torino con la Juventus, rimangono a meno 8 in classifica ma con una partita da recuperare dai nerazzurri. Sul fronte juventino rischia ora la panchina Ferrara. Nel pomeriggio hanno vinto il Napoli, che raggiunge dunque il terzo posto, così come Fiorentina, Cagliari, Palermo, Genoa e Livorno. E allora alle 8.33 minuti siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi, come detto parliamo di scuola. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, vi vogliamo chiedere che ne pensate delle quote, il tetto del 30% che il ministro Gelmini ha annunciato sarà operativo in maniera graduale a partire dall'anno prossimo, 30% massimo di alunni stranieri nelle classi italiane. C'è da dire che per il momento state votando in tantissimi, il 71% di voi dice siamo favorevoli, dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. Ieri ci sono state anche delle precisazioni importanti da parte del ministro Gelmini, che era ospite di Luce Annunziata su Rai 3. Tra poco le sentiremo. Prima voglio salutare le mie due ospiti, le due senatrici. La senatrice Irene Aderenti della Lega Nord, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come la senatrice Mariangela Bastico del Partito Democratico, buongiorno e benvenuta ovviamente. Buongiorno. Allora, tra l'altro entrambe con esperienze nella scuola, la senatrice Bastico è stata anche viceministro all'istruzione nel governo Prodi, entrambe anche con alle spalle anni di insegnamento. Ma senatrice Aderenti, intanto partirei da lei, Lega Nord è una battaglia che la Lega ha portato avanti. Immagino la soddisfazione, immagino insomma tutto bene così, insomma è una cosa che volevate e ci vuole, e come ha detto il ministro non è una questione legata assolutamente al razzismo ma anche all'integrazione? Sì, sì, io credo che la Lega Nord possa ritenersi soddisfatta, non a caso voglio ricordare agli ascoltatori che nell'autunno del 2008 alla Camera la Lega presentò una mozione parlamentare a firma Cota, ma che fu condivisa comunque anche da tutto lo schieramento della PDL, In cui si chiedevano due cose sostanzialmente: la possibilità di distribuire gli alunni stranieri nelle classi delle scuole italiane in modo da evitare la formazione di classi ghetto. Noi sappiamo già che in Italia ci sono in alcune situazioni, in alcune scuole del nord, addirittura classi che sono composte interamente da alunni stranieri. L'altra cosa che venne chiesta in questa mozione era l'istituzione delle classi ponte per alfabetizzare i bambini stranieri di nuova immigrazione che vengono inseriti nella scuola italiana e che purtroppo loro malgrado non conoscono la lingua italiana in virtù del fatto che sono arrivati da pochissimo in Italia. Sì. Comunque fermiamoci alla cosiddetta quota del 30%, quindi alla prima parte della mozione che venne approvata a maggioranza nel Parlamento, alla Camera dei Deputati, mi pare nell'ottobre del 2008, se non mi sbaglio. Ecco, chiaramente questa era una posizione della Lega, la Lega che voleva evitare proprio la formazione di classi e di scuole ghetto, alla luce anche della realtà di molte scuole del certo nord. Però le chiedo senatrice, quindi... perché voglio dire, il ministro Gelmini ha detto si faranno convenzioni con gli enti locali per spostare le persone. Cioè facciamo un esempio pratico: c'è una scuola che ha l'80% di alunni stranieri e quindi ne vanno spostati diversi. Allora, che fare se uno per esempio non vuole o si rifiuta? Ha fatto bene a precisare che è una cosa graduale, quindi non è che abbiamo la migrazione di alunni in immediato di tutti gli alunni iscritti in una scuola ad alta percentuale di alunni stranieri, perché sarebbe assolutamente contro ogni logica e inaccettabile. Quindi sarà una cosa graduale, sicuramente questa quota del 30%, questa disposizione verrà a mio avviso applicata soltanto all'atto di iscrizione nelle classi prime, quindi chiaramente sarà una cosa graduale. E è giusto che debbano intervenire gli enti locali, perché molto spesso io guardo la realtà per esempio della città di Mantova oppure la realtà del mio stesso paese, io abito in provincia di Mantova, ci sono per esempio 4, 5, 6 scuole presenti elementari, facciamo l'esempio molto concreto, due di queste hanno una percentuale altissima di stranieri, le altre no, ma sono presenti nello stesso comune, quindi è evidente che l'amministrazione comunale dovrà collaborare con i dirigenti per scolastici distribuirle. Per distribuire, soprattutto per offrire il trasporto di scuola bus, perché questo è assolutamente importante e determinante. E chiaramente ci vuole l'assoluta collaborazione degli enti locali con i dirigenti scolastici, quindi con le autonomie. Questo per fare prima di tutto uno studio esattamente del territorio, della realtà del proprio territorio e vedere quali possono essere le soluzioni non traumatiche assolutamente. No, ma tutto è chiaro, perché questo sì. Vorrei andare alla senatrice Bastico. Senta, il partito partiamo dalla coda, perché io a questo punto vorrei far ascoltare quello che il ministro Gelmini ha detto ieri a Lucia Annunziata, cioè si è detto ma come? Ci sono moltissimi alunni stranieri, perché figli di stranieri, ma sono nati in Italia, conoscono perfettamente la lingua, sono integrati eccetera, questi se la ratio è far insegnare l'italiano a uno per non rallentare l'educazione, non rallentare l'apprendimento di tutti, se uno sa perfettamente l'italiano seppure sia straniero, che bisogno c'è di toglierlo dalla classe? Il ministro Gelmini ha precisato questo. Proprio perché è un provvedimento che punta all'integrazione, abbiamo escluso gli studenti immigrati nati in Italia, che sono circa il 37%. Certo. E siamo convinti che in linea tendenziale si possa rispettare il 30%. Allora, gli alunni stranieri ma nati in Italia sono esclusi da questo provvedimento. Questo, senatrice Bastico, può tranquillizzare sul fatto del provvedimento, renderlo un po' più digeribile forse anche al Partito Democratico? Notizia sia che non è apparsa nella direttiva, no? E questo credo che sia un elemento importante, perché il fatto di distinguere se un bambino è nato in Italia e conosce bene la lingua italiana toglie alcuni aspetti discriminatori sui quali io avevo espresso grandissime perplessità e un totale dissenso. Noi come Partito Democratico ovviamente siamo d'accordo nell'evitare le classi ghetto, e quindi il fatto che i bambini non vengano concentrati in una sola classe, come purtroppo alcune volte è accaduto, è un elemento assolutamente positivo. L'equilibrio nella distribuzione dei bambini stranieri era uno dei criteri che già il ministro Fioroni e il governo Prodi avevano sempre inserito nelle direttive per le iscrizioni. E qui giocava l'autonomia scolastica, cioè all'interno di questo criterio si trovavano le soluzioni più positive, più gestibili, capaci di accogliere tra l'altro le iscrizioni come vengono dalle famiglie, perché ricordiamo che è la famiglia che ha diritto a iscrivere il bambino nella scuola, innanzitutto nella scuola che è più vicina, e poi pensiamo ad esempio nella scuola superiore, nella scuola che viene prescelta come quella che è quella che si desidera. E quindi qui questa direttiva secondo me è uno spot molto impraticabile, per molti molti aspetti impraticabile. Io vengo dall'Emilia Romagna, dove mediamente la presenza dei bambini stranieri supera il 13%, è la regione che ne ha di più, e quindi lei capisce benissimo che ci sono alcuni comuni piccoli dove le scuole non sono 4 o 5 ma sono 1, o alcuni comuni grandi dove comunque andare da una scuola che sta in un quartiere a quella che sta in un altro comporta tempi di trasporto, disagi e costi per i comuni enormi. Quindi facciamo in concreto: la famiglia che iscrive il bambino in una scuola e sente dire no. Intanto questo è illegittimo, perché la legge dice che la scuola deve dire sì, soprattutto se si tratta di una scuola dell'obbligo. Secondo punto, gli si spiega che il bambino andrà dall'altra parte della città, e chi paga questo trasporto non è assolutamente chiaro. Un aspetto pratico, questi sono gli aspetti pratici che non le piacciono, insomma. Assolutamente impraticabile, secondo me è impraticabile. L'altro aspetto è discriminatorio, perché i bambini stranieri, soprattutto quelli che comunque conoscono la lingua italiana, e perché così è la direttiva, e quindi si sembra proprio il dirsi che è una norma fatta ad hoc, quindi una norma fortemente discriminatoria che lede oltre al principio dell'autonomia scolastica, oltre al principio della libertà di iscrizione nella scuola che si desidera, anche il principio di uguaglianza. Quindi un giudizio molto molto negativo, tra l'altro abbinato al fatto che il ministro Gelmini, mentre fa questa norma, ha tolto tutte le risorse e anche le modalità attraverso le quali le scuole si erano organizzate per rispondere bene, alcune molto bene, perché ricordiamoci che ci sono delle vere e proprie esperienze pilota per accogliere i bambini stranieri. Mi riferisco ai mediatori linguistici, ai mediatori culturali, alle esperienze di integrazione che sono state fatte, al fatto che ci fossero due maestri, ad esempio nella scuola elementare, che favorivano assolutamente tutto il lavoro dell'integrazione e il lavoro di apprendimento della lingua. Ecco, questa norma è accompagnata da quelle decisioni che caratterizzano peraltro purtroppo tutta la politica scolastica, di tagliare, soprattutto su quelle risorse che fanno buona integrazione, insomma, e buona qualità. Lei dice impraticabile dal punto di vista pratico e discriminatorio in alcuni punti. Vediamo cosa ne pensano due ascoltatori, poi torniamo ai nostri ospiti. Ovviamente 800 24 00 24. Maria da Roma, buongiorno. Buongiorno. Di chi è? La mia esperienza, quando mia figlia, ora ha 16 anni, ma quando mia figlia era alle elementari in una zona di Roma molto popolata di stranieri, infatti le scuole erano piene zeppe di ragazzini stranieri, aveva una compagna di scuola, due amiche sue, una del Bangladesh, scusi sono affaticata che ho fatto le scale, e una del Bangladesh, e che non sapeva una parola, suo malgrado, poverina, non sapeva una parola di italiano, per cui lei piangeva spesso perché non capiva, e gli altri insomma un pochino dovevano avere la pazienza di ripetere, sì. ancora. Mentre l'altra del Congo, molto nera, per cui era proprio, entrambe amiche di mia figlia, perché loro hanno un linguaggio universale, si capivano perfettamente, l'altra del Congo che aveva delle competenze molto superiori a quelle di mia figlia, che era italiana, per cui parlava perfettamente italiano. Ma quindi, cioè, voglio dire, per arrivare a dire, ben chiaro, per arrivare a dire che secondo me la selezione del famoso 30% di persone in difficoltà non deve essere in base alla nazionalità, ma in base alle competenze, come la pedagogia detta, cioè non, la scuola non deve seguire non deve far seguire, cioè, non deve guardare il non deve guardare il passaporto, lei dice, ma no, ma deve guardare, ma le competenze, se uno sa l'italiano, uno non sa l'italiano. No, la congolese era molto più competente di mia figlia, perché aveva un linguaggio pulito italiano perfetto, avendo anche i genitori che parlavano congolese e parlavano anche italiano male. Lei invece parlava perfettamente italiano, perché l'aveva imparato senza inquinamenti dialettali. Mia figlia scendeva era nata in Italia? Era nata in Italia, e quindi non rientra, insomma, da quanto ha detto il ministro Gelmini, cioè quella bambina congolese non rientra nelle quote del 30%, nella precisazione che il ministro ha fatto ieri, insomma, quindi questo sgombrare il campo da questo tipo di equivoco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, che ne pensate del 30% massimo di alunni nelle scuole italiane? Per ora sempre il 71% di voi dice siamo favorevoli. Rimango appunto a Roma da Tariq. Buongiorno Tariq. Sì, buongiorno. Che dice? È un problema, nel senso che secondo me non bisogna partire dal presupposto e capire esattamente come viene fatta questa separazione e soprattutto con quale criterio, perché ci sono certi individui che sono, diciamo, più predisposti all'apprendimento in maniera molto più rapida e altri meno. Il criterio, insomma, essere stranieri, a parte la precisazione ieri, se si è nati in Italia, no, insomma, poi è chiaro, bisognerà vedere cose pratiche caso per caso, ma il concetto è quello, non più del 30% di alunni stranieri, insomma. Poi secondo me questo non aiuta assolutamente l'integrazione. Io parlo comunque della persona straniera non nata in Italia ma cresciuta in Italia, e io fondamentalmente quando ero in classe con ragazzi tutti italiani non ho avuto un problema neanche nella comunicazione, perché sono delle cose naturali. Quando si è bimbi queste cose sono molto più semplici. Il problema, Tariq, sa qual è? È proprio il numero di persone. Lei magari era in classe, era l'unico studente in mezzo a tanti italiani? Eravate in due e capisce che, insomma, non è la classe in cui in 30 si è in 25 stranieri, ci sono anche queste classi. Lì come si fa a insegnare se nessuno capisce? Ma per tutti, sia per gli stranieri sia per gli italiani, Sicuramente, quando, ecco, in casi di questo tipo io posso essere d'accordo, ma secondo me si sta sfruttando troppo il termine immigrazione, il separare, il volere a tutti i costi creare una distinzione tra immigrati e non è giusto. Lei dice non le piace in questo contesto, insomma. Va bene, la ringrazio Tariq per il suo pensiero. Voglio salutare anche il professor Michele Ainis che ci ha raggiunto. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lei è un costituzionalista, oggi lei sulla stampa ha scritto un articolo nel quale, sottolineando il fatto che, insomma, come ha detto il ministro Gelmini, per chi è nato in Italia non si applica questa norma, vado a leggere le sue prime righe. La prima riforma degli anni 10 non ha il timbro della legge né tantomeno della legge costituzionale, viaggia su una vettura più dimessa, cioè la circolare ministeriale. Cioè, di cosa si parla? Sapete che c'è in ballo la questione di accelerare la cittadinanza per gli stranieri nati in Italia, applicando quello che lo ius soli, cioè il fatto di essere nati in un paese, dunque avere diritto alla cittadinanza. E lei dice questa dichiarazione del ministro Gelmini, cioè gli stranieri che sono nati in Italia non entrano in questo 30%, è cos'è, una prova provata che si deve fare così? Ma diciamo è una concreta applicazione dello ius soli, sia pure in un campo specifico. Noi abbiamo un ordinamento che è governato da una legge del 92, a sua volta figlia di altre leggi, tutte improntate allo ius sanguinis, cioè la cittadinanza dipende in qualche misura dai cromosomi e dal codice genetico. In questo caso no, perché lo straniero nato in Italia viene assimilato per tutti gli effetti all'alunno italiano. Ora, siccome su questo pende anche una proposta di legge bipartisan in Parlamento che ha destato le polemiche di alcuni ma anche i consensi di molti, e la proposta Sarubi Granata poi sottoscritta da una cinquantina di deputati di tutti i gruppi, sì. Ecco, sarebbe una buona cosa ragionarci e prenderla in considerazione. Ricordo che questa proposta di legge intanto dimezza i tempi per ottenere la cittadinanza rispetto agli stranieri regolarmente residenti in Italia. Oggi servono sulla carta 10 anni che spesso arrivano a 15, in quel caso ne basterebbero 5 e poi concederebbe automaticamente Ma infatti il deputato Sarubbi del Partito Democratico, sempre intervistato dalla stampa, ha detto: accidenti, ringrazio il ministro Gelmini, utilizzerò questa cosa nel dibattito parlamentare sul... Ma le pare possibile che una dichiarazione di un ministro possa in qualche modo, le chiedo proprio da costituzionalista, comunque da esperto di norme, leggi, possa in qualche modo costituire un precedente o pigliarsi a quello per dire: avete visto che lo Ius Soli già si attua in una circolare ministeriale? Diciamo che contribuisce a determinare un clima che è un clima politico e in qualche modo anche un clima normativo, perché le dichiarazioni di Gelmini poi in realtà riecheggiano quello che sta stampato su una circolare del Ministero che consente ai presi di derogare a questo tetto del 30%. Forse in Italia, io ho anche provato ad accennarlo con un filo di ironia, questo, le riforme possibili sono quelle che si fanno sottovoce, senza scomodare grandi dibattiti o addirittura la Costituzione, ma procedendo a piccoli passi. A me mi sembra un buon passo in avanti. Potrebbe partire da qui. Io intanto la ringrazio, professore. Non so se la senatrice aderenti, che su questo, essendo esponente della Lega, non è proprio forse il suo tema, però la Lega è fortemente avversa, contraria a questa velocizzazione, velocizzare la cittadinanza per chi è nato in Italia. Però il ministro Gelmini ha detto: chi è nato in Italia, l'aspetto pratico, è a tutti gli effetti verrà trattato come un alunno, cioè un alunno straniero nato in Italia, come un alunno italiano in questa applicazione. Ma certamente. Non lei non vede questo rischio dal punto di vista della Lega, no, che si possa allora dire allora sono italiani, insomma? No. Allora, io sono molto pratica e difatti farò un esempio anche qui molto, molto banale, molto concreto. Allora, riguardo alla formazione della classe, qui voglio riprendere sia un passaggio che ha fatto la collega senatrice Bastico, sia l'ascoltatrice, la sì, signora che ha chiamato. Ecco, allora, si pone, diciamo, ha ragione la senatrice Bastico quando dice che per certi versi questo provvedimento può essere discriminatorio rispetto alla libertà di iscrizione delle famiglie. Se la guardiamo da questo punto di vista, devo dire che la senatrice Bastico ha perfettamente ragione. Però io so, perché vengo anch'io dal mondo della scuola, ho insegnato anch'io 32 anni nella scuola elementare, che tutti gli istituti scolastici hanno deliberato i criteri di formazione delle classi, facciamo l'esempio delle classi prime elementari, per cui si cerca di formare considerando le competenze e le problematiche dei bambini che escono dalla scuola materna, si fanno delle riunioni, delle considerazioni nelle quali si stabilisce una equità, diciamo, della formazione delle classi in maniera molto plateale, che in una prima elementare non ci siano tre portatori di handicap, sì, e nell'altra no, in modo che una classe non sia costituita da femminucce e l'altra solo da maschietti. Quindi si cerca di amalgamare le diversità anche sociali, culturali, di sesso, eccetera, di problematiche che le classi. Ecco, in questo caso la libertà delle famiglie viene comunque in qualche modo toccata, perché io ho avuto casi di famiglie, di italiani, che dicevano: i nostri bambini li vogliamo insieme, ma dalle insegnanti di scuola materna ci arrivava la segnalazione che forse questi due bambini era meglio separarli perché avrebbero avuto dei problemi loro. Senatrice, ecco, però io su questo, allora, noi dobbiamo assolutamente utilizzare i criteri di formazione delle classi anche per i bambini stranieri di nuova immigrazione e i bambini invece stranieri che sono nati in Italia, considerarli quindi come tutti gli altri. Quindi lei comunque non teme che questo possa... gli altri, per cui o si decide di lasciare la piena libertà alle famiglie di scrivere i bambini dove vogliono, però allora avremo questo problema, equilibrate, oppure limitiamo nel dibattito la libertà, sì, nella condivisione la libertà di iscrizione delle famiglie e cerchiamo di creare da tutti i punti di vista delle classi equilibrate. Vabbè, lei dice comunque non teme che questo possa dire allora sono cittadini italiani, insomma accelerare quel processo di cittadinanza. Non ho parlato alle scuole materne perché non si applica alle scuole materne questo provvedimento, si applica alle scuole dalle scuole primarie e secondarie, le scuole materne no, leggete la circolare ministeriale. Ci fermiamo, grazie a Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia, continuate a votare e ci sentiamo domattina.